nata un po' per caso, nel senso che avevo scritto una paginata o poco più dell'idea che era, ancora, non si chiamava ancora Andrea, ne ho parlato con Alberto, mi ha detto guarda secondo me è molto bello però più nella forma del racconto breve. Io ho continuato a pensarci a questa cosa, ma nel frattempo il destino mi ha mandato al bar, al bar ho conosciuto Luca Genovese, quindi tra amicizie comuni che io già conoscevo per i suoi lavori da fumettista, ci siamo messi a chiacchierare, siamo trovati molto bene, gli ho raccontato di questa idea, mi ha detto mandami qualcosa, da lì insomma siamo partiti fino ad arrivare a domani, insomma, dove inizia un altro tipo di viaggio per le presentazioni. Certo, poi sulle presentazioni so che avrete un tour estenuante, quindi te lo chiederò più tardi, però quindi insomma questo conferma che il bar è un posto che è un po', come dire, un crocevia di mille storie ed è anche un posto dove è ambientata la storia di questa graphic novel. Sì, sì, Andrea è un barista che utilizza il bancone un po' come finestra sul mondo e ha comunque un passato un po' turbolento che deve riuscire a pacificare, è un presente che diventerà purtroppo per lui complicato, le due cose insomma porteranno a una serie di considerazioni da fare e da gestire. Ci sono alcuni elementi, ovviamente io ancora non ho letto il fumetto, la graphic novel, quindi parlo un po' a scatola chiusa, però ci sono alcuni elementi come appunto il bar che si trova in periferia e con un contesto ostile, quanto c'è di autobiografico, di biografico in questo lavoro e quanto invece è frutto di pura immaginazione? Guarda, c'è sempre secondo me un po' di autobiografia dentro, ma serve principalmente per poter aprire delle considerazioni, dei pensieri. Andrea in realtà nel suo complesso è un personaggio di pura finzione, insomma non è rappresentativo né di me né di Luca. Alcune cose sono esperienze, momenti, pensieri che abbiamo vissuto, altre sono estrapolate dalla necessità narrativa e dal contesto che viviamo tuttora. Sì, esatto, un contesto in cui spesso che spesso viene affrontato anche in termini retorici, no? Leggevo, questo bar si trova in periferia, sulla periferia si dicono tante cose, e come lo affronti questo tema? Guarda, lo affronto con grande serenità, perché sono un ragazzo di periferia, io ho 33 anni e per 33 anni ho vissuto in periferia, non sono mai stato uno di quelli, adesso vado a vivere in centro, anzi, ho avuto un po' paura di questa possibilità. Trovo anche che, soprattutto per una città come la nostra, la narrazione tipica, no, centrocentrica, diciamo così, dell'università, delle feste, dei centri sociali, che fanno sempre cose positive ed è sempre tutto molto bello, tenda un po' a distrarre poi da quello che è una realtà oggettiva, perché comunque tanti vivono in periferia e tanti vivono le periferie, che non sono belle e accoglienti come il centro di Bologna, molto spesso sono delle periferie vuote. Io dicevo appunto in questi giorni di interviste che la biblioteca più vicina a casa mia è a più di un chilometro, alle 21 tutti i negozi e i bar sono chiusi e i mezzi pubblici da mezzanotte e mezzo smettono di passare, quindi insomma si abbandona poi la città, ti costringe a, come dire, mettere assieme delle tecniche di difesa, di intrattenimento che sono diverse da chi vive vicino o comunque circondato dalle possibilità. Ecco, dicevamo prima, sarete insomma impegnati in un lungo tour di presentazioni, tra l'altro sei a Luca Comics, se non sbaglio, giusto? Assolutamente sì, facciamo l'esordio a Luca Comics. E poi come proseguirà? A Bologna quando lo presenterete? Allora, che giro farai? Allora, il tour continuerà il 5 alla Feltrinelli Appia di Roma, il 6 in Sala Borsa di sera verso le 8:30-9, poi saremo il 7 a Padova, l'8 a Genova, il 9 Riposo e il 10 non me lo ricordo. Vabbè, andiamo avanti fino a più o meno il 20 di novembre, quindi ce ne sono tante. Ci sarà modo ovviamente di vedere e trovare anche online le presentazioni. Ti faccio un'ultima domanda un po' cazzona, perché siamo stati molto seri in questa chiacchierata. Vai. Allora, dicevamo la musica, la letteratura, adesso la TV anche con Lodo. A quando il cinema? Guarda, in realtà abbiamo fatto una colonna sonora l'anno scorso per gli Asteroidi, è stata una produzione Emiliano Romagnola, quindi molto contento. Ma mi aspettavo che tu mi chiedessi a quando Papa o quando Presidente della Repubblica. No, un passo alla volta, arriveremo anche lì. Però io insomma ho apprezzato molto anche la citazione cinematografica che è contenuta nel video del Paese dell'Amore con Mastrota e una scena tarantiniana, ecco, diciamo così, ho azzeccato. Sì, abbiamo voluto pagare tributo a una nostra grande passione.